Quando c'è troppa salute, a lungo, a lungo, a lungo andare produce un'invidiabile soddisfazione. Ti senti più graffiante di un leone, ma solamente quando c'è troppa salute, si può far due salti nel golfo col paracadute. Vabbè che nel deserto non ci sono le giungle, ma strisciare nella sabbia credo che ci sia il rischio di scottarsi le unghie. Allora vedi che forse era meglio un infarto, che prima di schiacciare il tasto gli bloccava l'arto. Così